Il dottor Di Pietro non se ne avrà a male. Se con tutto il rispetto per il suo lavoro, tutti i complimenti per i risultati che ha raggiunti, io non mi unisco al coro di deprecazioni, di inviti a recedere che si è elevato nel paese all'annuncio della sua decisione di abbandonare l'ordine giudiziario. E ne sono contento per lui. Mi rendo conto di come la sua presenza in quella sede fosse per la maggior parte dei concittadini di conforto nei tempi difficili che stiamo vivendo. Ma l'idea di un magistrato che per un motivo o per l'altro decide di attaccare in via definitiva la toga al classico chiodo mi rallegra più di quanto non riesca ad affliggermi. Da cittadino rispettoso delle leggi mi inchino al ruolo e alla funzione dei tribunali, ma con tutta la buona volontà non riesco ad entusiasmarmene. Perseguire le altrui malefatte è ovviamente necessario, ma comporta dei problemi categoriali cospicui, delle responsabilità di potere da far tremare le vene e i polsi a chiunque. Quando quelle malefatte hanno rilevanza in campo politico, l'intervento dei giudici finisce inevitabilmente per diventare qualcosa di molto simile a un male necessario. Non è colpa del terzo potere, certo, se da 25 anni, l'anniversario esatto come noto cade domani, se da 25 anni il nostro dibattito politico tende a confondersi inestricabilmente con le piste giudiziarie, ma è certo che la confusione non ha giovato a nessuno, né ai magistrati né a noi. E se qualcuno finalmente riesce a deporre un carico tanto gravoso, perché dovremmo chiedergli di tornare indietro, scusate? Poi francamente Di Pietro non ha certo bisogno di me, non ha bisogno di noi. A supplicarlo di cambiare idea, ricoprendolo di lodi che farebbero arrossire di modestia al Padre Eterno in persona, stando agli ultimi sondaggi, il 94% degli italiani, Presidente della Repubblica in testa. E mica solo i suoi colleghi, mica solo i leader d'opposizione che pur di dare fastidio a Berlusconi sono disposti notoriamente a tutto, mica solo quanti dalle sue azioni giudiziarie possono attendersi qualche vantaggio, politico o altro. Berlusconi stesso, con tutte quelle che viene staccate in passato, ha dichiarato solennemente che quelle dimissioni lasciano l'amaro in bocca e pensa di incontrarlo molto presto, e che le sue televisioni sono sempre state in prima linea a difendere i magistrati, in particolare lui. Biondi, che gli ha mandato un'ispezione amministrativa tuttora in corso e che non ne ha neanche letto il rapporto finale, ha spiegato che il colloquio che ha avuto con lui gli ha sollevato il cuore, e scusate se è poco, e che proprio per la nobiltà di quelle motivazioni lo esorta a rimanere. E se Fini non si è sbilanciato più che tanto, ci ha pensato Alessandro Mussolini, che l'ha definito in diretta una persona intelligente, moderna e giovane, gli ha augurato di andare al potere e di restarci almeno per 20 anni. E sappiamo tutti che per una nipote di tanto nonno la cifra 20, quel periodo di 20 anni, ha un significato assolutamente speciale. Però è strano perché Di Pietro, che a sentir lui ha gettato la spugna perché era stanco di sentirsi usato, utilizzato, tirato per le maniche, sbattuto ogni giorno in prima pagina dalle opposte fazioni unite soltanto nella volontà di strumentalizzare la sua figura e la sua opera, finisce col trovarsi in prima pagina più che mai, oggetto di un'unanimità di lodi dietro cui persino un bambino non troppo sveglio leggerebbe la volontà appena mascherata di usarlo ciascuno ai propri fini. Spogliatosi dalla sua funzione, non importa se per un motivo o per l'altro, si è reso disponibile proprio a quella strumentalizzazione che deprecava. Appellandosi, come ha fatto, al valore dell'obiettività disinteressata della sua azione, ho lavorato nel modo più obiettivo possibile, senza alcun fine, ha scritto, permette che gli altri vi attribuiscano i propri obiettivi e i propri fini. E mentre si diffondono a macchia d'olio le voci di un suo imminente ingresso in politica e i vari leader di partito annunciano magari un po' ingenuamente l'intenzione di servirsi delle sue doti salvifiche per ridare fiato ai propri progetti, lui, per smentire qualsiasi intenzione in merito, non trova niente di meglio che farsi ricevere al Quirinale dal Presidente della Repubblica, che non ha mai nascosto la convinzione che il compito di scegliere i leader del paese spetti sempre e soltanto a lui. Tutto questo non fa sperare molto di buono. Non fa sperare molto di buono perché l'obiettività è un valore importante per un giudice, anche se personalmente non credo più di tanto alla capacità storica della magistratura, da quando ne esiste una, di agire sempre e soltanto in nome di quel valore, senza guardare in faccia nessuno e senza cedere alla tentazione di considerare oggettivamente prevalente l'interesse delle classi al potere. Ma l'obiettività comunque è un valore importante per un giudice, ma ai politici non si deve chiedere un comportamento obiettivo. Per un magistrato i comportamenti altrui non possono che essere o leciti e quindi ammessi o illeciti e quindi meritevoli di condanna. A un politico in democrazia noi chiediamo di promuovere i propri interessi di parte, di promuoverli soggettivamente, ma di riconoscere al tempo stesso la vicinità e l'ammissibilità degli interessi altrui. La sfera giuridica si organizza per esclusione. La sfera politica è un ambito di mediazione e di composizione. La pretesa di esercitare il potere in nome di un ideale che trascenda gli interessi e le finalità soggettive tra tutte le ipotesi politiche è oggettivamente la più pericolosa. E poi in fondo, perché gli italiani si sono entusiasmati tanto per i magistrati di Mani Pulite? Per amore di giustizia, certamente, ma non certo perché in tutte le loro azioni e procedure vedessero incarnate una giustizia assoluta. Che è una pretesa, sarebbe una pretesa ingenua anche per un'opinione pubblica meno smaliziata della nostra. Li hanno ammirati e amati perché nella loro azione hanno visto attuarsi una contraddizione cui erano impreparati, perché li hanno visti applicare le procedure giudiziarie ai detentori di un potere che nel passato se n'era sempre ritenuto immune e come tale se era sempre stato trattato. Ora, non stiamo a discutere se questa lettura popolare fosse o non fosse corretta, ma certo rifletteva la coscienza di una novità storica sconvolgente. In nome di quella novità la maggioranza dei cittadini è stata disposta a investire la magistratura di un carisma assolutamente inusitato. Ora, è ovvio che le cose non sono così semplici. Il carisma in sé non garantisce molte cose. E poi quelle contraddizioni, quella contraddizione attraversava e attraversa la magistratura stessa, che infatti nel suo interno ha manifestato una serie di comportamenti oppositivi. Ma questo non conta. Quello che conta, quello che è poco ma sicuro, è che chi ha definito il proprio ruolo, la propria popolarità, sulla asserita capacità di chiamare a render conto delle proprie azioni anche i potenti, poi deve stare attento a escludere dai propri propositi quello di accedere al potere, di farsi cooptare nel potere come si fa da noi, a prezzo di incappare lui in una contraddizione capace di distruggere la sua carriera, forse no, ma l'illusione di chi ha avuto fiducia in lui sicuramente sì. A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow.